Eccoci qua, tanti saluti a tutti. 17 maggio, la quinta puntata di Loco 19. Benvenuti. Allora, mi tocca come sempre ricordare, stante la nostra costante condizione di precarietà, che ogni evento, caduta o sbalzo che ci potrà essere nel segnale, cercheremo di recuperarlo quanto prima. È sempre possibile prepararsi, essere preparati, stare preparati. In ogni caso, il punto di riferimento per aggiornamenti e informazioni è la home page, è il primo link della home page sul nostro sito che ha come indirizzo lost.abbiamoundominio.org. Inoltre, chi volesse comunicare nel corso della trasmissione può farlo utilizzando l'email lost@inventati.org oppure il pad, che è una pagina il cui link è riportata appunto sul nostro sito, che è una pagina aperta per scrivere commenti, fare domande, suggerimenti e dare eventualmente dei contributi. Oggi il nostro streaming è rilanciato da Radio Virus, che ha come indirizzo abbiamoundominio.org 2.8000/radiovirus.mp3 e, come le volte precedenti, dallo stream di COX 18, cox18stream.noblogs.org. Lo stream di COX 18 interrompe una lunga streaming audio musicale che è in corso da 3 giorni e che sostituisce quello che è l'attuale appuntamento di 3 giorni che va sotto il nome Quello che facciamo è segreto, e che ricorda, festeggia il compleanno di Gigione, Luigi Galmozzi, un amico, uno compagno del centro sociale, di professione faceva il fonico, una presenza importante, ha insegnato a tutti la calma e l'equilibrio, sapeva prendere la parola giusta, usare le parole giuste al momento giusto. Che è morto prematuramente il 30 dicembre 2015. Il suo compleanno sarebbe stato il 15 maggio e per questa ragione, da allora al 15 maggio, il centro sociale organizza questa 3 giorni che forse qualcuno di voi ha anche visitato. Quindi noi ci inseriamo all'interno del palinsesto e vogliamo farlo dedicando a Gigi, questa puntata. Lo faremo con una poesia di Anna Borghi letta da Francesca Giorgi e un pezzo di un concerto dei Tre Ragazzi Morti, per cui Gigi faceva il fonico, appunto, registrato live in Conchetta il 6 febbraio del 2000. Possiamo andare con la poesia. Succede che uno se ne va, non saluta, non fa valigie, non ha comprato il biglietto né affidato il gatto al vicino. Se ne va e basta, magari ridendo troppo, pensando ai momenti belli, alle sbronze, ai rossori, alle timidezze, agli ardori. Se ne va così, come soffiare forte, spegne la luce di colpo e noi si resta lì. Confusi al buio, dall'altra parte della stanza, senza spostarci perché è tutto diverso e si ha timore di inciampare nelle lacrime e rituffarsi nei ricordi. Si sorride, si piange, si va a prendere il respiro che è rimasto inchiodato nelle costole e lo si spinge su, perché succedono cose a esser vivi, già, ad esser vivi. Anna Borghi, 2015. A Luigi Galmozzi. Ciao. Thank you. Interrompo il pezzo, e questo pezzo, come molti concerti di Conchetta, si possono sentire su Cox 18 Stream, appunto, sul blog di Conchetta. Quindi interrompiamo perché abbiamo un'agenda abbastanza lunga, allora fitta, direi. Allora, ce l'avamo ripromessi la volta scorsa di fare una pausa nelle riflessioni sulle, come si può dire, i contorni, diciamo, di ciò che accadeva attorno a questa pandemia del coronavirus, e di dare un'occhiata a ciò che succede nel mondo. Avremo quindi adesso una serie di contributi dall'estero. Alcuni di questi sono registrati, di alcuni di questi si potrete anche capire il motivo, e alcuni invece saranno in diretta. Infatti abbiamo uno studio abbastanza affollato. Io direi che mandiamo il primo e poi facciamo le presentazioni. Ma che qualche dici? Saluto prima, perché effettivamente è uno studio molto affollato e credo che da fuori non si percepirebbe. Intanto ciao a tutti e tutte. E suggerirei, visto che abbiamo detto che è uno studio molto affollato, a chi è in affollamento con noi di posare un attimo la birra e salutarci. Ciao a tutti. Ciao a tutti e tutte. Saluti da Dublino. E saluti a tutte, grazie. Victor da Barcellona, Ray da Parigi, Bombo da Dublino. E invece noi adesso andiamo in Giappone. In Giappone abbiamo un resoconto di quella situazione che c'è in Giappone, che ci ha fatto Shinya Kitagawa, che probabilmente ci sta ascoltando, quindi saluto anche lui. Ciao Shinya, che è un ricercatore di geografia all'Università di Mie, nella regione del Kansai, nel sud del Giappone. È esperto di questioni europee e tante volte ha fatto visita all'archivio Moroni per leggere e consultare i materiali, quindi abbiamo approfittato di lui per chiedergli un po' un quadro della situazione nel paese a noi molto lontano. Penso che possiamo andare. Ciao a tutte e tutti. Prima di tutto vorrei dire che ora in Giappone non ci fosse nessuna informazione precisa o approssimata su come e quanto si sta diffondendo l'infezione del coronavirus. Si può dire così particolarmente sulle grandi aree metropolitane. Attualmente ci sono 16.203 contagiati e 713 decessi in Giappone, ma solo qualche giorno fa un membro della riunione di esperti del governo ha detto che il numero di contagiati sarà 10 volte, 20 volte o 30 volte. Fino a questo momento sono stati effettuati pochissimi tamponi rispetto agli altri paesi, tra cui l'Italia. In Giappone il numero di tamponi per 100.000 persone è di 188. Invece in Italia è di 3.159. Quindi il governo di Shinzo Abe non coglie niente la realtà di diffusione del virus, perciò non può affrontarla e non può prendere qualche misura razionali, tra virgolette. Però, prima di ciò, il governo non ha la capacità di adottare il metodo di difendere la società, tra virgolette anche qui, in maniera ferma, come in Italia, Cina, Corea del Sud. Sembra buono, ma questo significherebbe che il Giappone volesse andare verso la selezione naturale marsusiana, come Boris Johnson e Trump hanno provato a prenderla nel primo momento e Bolsonaro continua a farla. Credo che si possa dire apparentemente sì su questa cosa. In realtà, questo governo giapponese ad estrema destra non ha volontà forte di affrontare in maniera concreta la crisi biosociale causata dal coronavirus. Anche non sa fare niente. Mancano sia la capacità che la volontà di governare. Questo è un tipo di politica giapponese di lasciare tutto, anzi, dico meglio, politica di abbandonare una parte di popolo. Il popolo abbandonato si chiama in giapponese Kimin. Kimin. La parola è stata utilizzata storicamente per nominare gli emigrati poveri e superflui, potremmo dire allontanati, verso l'America Latina dal Giappone alla fine del XIX secolo e nella prima parte del XX secolo. Mi sembra che ci siano tre ragioni per la situazione non chiarita e la politica sulla diffusione del Covid-19 in Giappone. In primo luogo, vorrei menzionare le Olimpiadi a Tokyo 2020, volute fortemente dal presente governo nazionalistico. Molti giapponesi già capiscono bene che il numero di tamponi era limitato tanto per le Olimpiadi. Tutto solo per fare mostrare al mondo che sia Tokyo sia il paese intero stanno bene per tenere ancora questo mega evento distruttivo per cui lo Stato ha già investito circa 25 miliardi di euro e ha spogliato gli spazi pubblici e i luoghi dei emarginati e poveri con la gentrificazione, particolarmente per gli interessi privati del capitale immobiliare e anche grandi media. Dalla decisione dell'invio delle Olimpiadi il 25 marzo scorso, i positivi stavano aumentando notevolmente. C'erano stati 96 positivi il 25 marzo. Dopo questo giorno, il numero di positivi è elevato. Più di 100, 200, 300, 400 casi al giorno stavano registrati. In secondo luogo, devo dire che il neoliberismo ha assottigliato il sistema sanitario e medico dagli anni 80. Gli esperti hanno detto in questi mesi che il numero di tamponi ha dovuto essere mantenuto basso per evitare il collasso medico. Insomma, se aumenteranno i positivi, gli ospedali staranno per crollare. Però, infatti, prima del coronavirus, il sistema stava andando a crollare. Per esempio, i centri sanitari locali stanno ora svolgendo il ruolo fondamentale per effettuare il tampone e ricoverare in ospedale i pazienti positivi, ma adesso il numero di centro sanitario è stato ridotto a circa la metà rispetto agli anni 90. Nel momento della nuova influenza in 2009 c'è stata qualche discussione sulla necessità di potenziare di più l'istituzione sanitaria, tra cui questi centri sanitari. Nella riunione del Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese, ma non ha avuto nessun impatto materiale e istituzionale. Il governo centrale neoliberale non fa niente e forza questi centri precarizzati a lavorare ora duramente. Quindi adesso non c'è un regime fermo e stabile per affrontare l'epidemia. In terzo luogo, diciamo così, non fermare l'attività economica. Sembra che in questi mesi il governo e i capitalisti non volevano fermare l'economia e davano la priorità assoluta rispetto alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, oppure davano la priorità capitalista rispetto alla loro sicurezza. A febbraio e marzo la gente lavorava come di solito, anche se le scuole erano chiuse a marzo. I treni dei pendolari a Tokyo erano pieni di lavoratori come al solito. Erano spazi di alta densità e di alto rischio di infezione. Questo significava anche altra cosa. Il governo di Abe non vuole dare la sicurezza sufficiente e il sostegno economico ai lavoratori e anche alle piccole e medie imprese per la sospensione e la chiusura. Questa esitazione da parte del potere è stata evidenziata dalla proposta, ma subito ritirata. La proposta a marzo di distribuire ai abitanti, al popolo, i coupon per la Wagyu, insomma le carni giapponesi e anche i pesci per la garanzia. Pazzesco, troppo surreale rispetto a quello che succede in realtà per la vita di gente. A mio avviso, queste sono tre ragioni per pochissimi tamponi. Ora mi riferisco alla dichiarazione di emergenza giapponese a metà aprile, prendendo in considerazione l'attività economica continuata e anche alle altre attività. Un professore della riunione di esperti del governo ha calcolato che ci saranno 420.000 morti se non sarà fatto nulla per affrontare e contenere la diffusione del virus. Shinzo Abe ha già emesso la dichiarazione di emergenza per le regioni più colpite, tra cui Tokyo ed Osaka, il 7 aprile, ma l'ha estesa a tutto il territorio nazionale il 16 aprile. Tutto questo è fatto dopo la decisione dell'invio al prossimo anno delle Olimpiadi. In Giappone questa dichiarazione non ha portato al lockdown, quarantena totale, come in Italia. È molto limitato. Dicendo semplicemente, è stata solo la richiesta dal governo al popolo, la richiesta per l'autoisolamento, autochiusura e autosospensione di lavori e attività considerati come non indispensabili. Quindi anche dopo la dichiarazione, molta gente continua di andare a lavoro e ci sono i ristoranti e i negozi aperti, però la dichiarazione funziona come un certo tipo di misura eccezionale che dà più il potere alla politica amministrativa. Poi, anche se solo la richiesta funziona come il comando dell'autodisciplinamento individuale del popolo, come un dispositivo di ridurre i problemi sociali strutturali a quello di comportamento morali, civili di ogni individuo, senza metterli politicamente in questione. Perciò il Giappone vive e vivrà lungamente ed oziosamente la situazione vaga tra la normalità e l'eccezione. Si ripete e si ripeterà l'emissione e la revoca della dichiarazione di emergenza. Infatti, ieri, il 14 maggio, sulle molte aree, tranne quelle di Tokyo ed Osaka, la dichiarazione è stata revocata. Qui menziono le misure politiche concrete corrispondenti alla diffusione di infezione. Il governo conservatore e xenofobico sta distribuendo due mascherine di stoffa ad ogni famiglia, non ogni individuo. Poi sta distribuendo 865 euro ad ogni individuo e anche agli stranieri regolarmente soggiornanti. Però non basta assolutamente. Sono pochissimi soldi per continuare a vivere, continuare a vivere per lavoratori precari e disoccupati in questa crisi biosociale che sembra durare a lungo, ma per il senza tetto è difficile ricevere questi soldi, perché secondo l'autorità discriminatoria loro non hanno gli indirizzi di casa, in altre parole, non sono iscritti nella data anagrafica. La stessa cosa corrisponde agli immigrati irregolari. Tutta questa insufficienza microscopica, a volte surreale rispetto a quello che succede con il Covid-19, dipende dalla mancanza di volontà, dalla riluttanza di cogliere la situazione della diffusione di coronavirus e anche dalle tre ragioni che ho detto prima. Aggiungerei una cosa qua. Il governatore di Osaka, di destra, neoliberale, ma ora anche le altre, ha detto: spediamo molti mantelli impermeabili agli ospedali, perché lavoratrici e lavoratori ospedalieri possano difendersi dal contagio. Pazzesco, non affronta in ogni modo la mancanza di tute protettive, di cui una delle cause è derivata dalla incapacità e indeterminazione per prepararsi in questi mesi, anche in questi anni, prima del coronavirus. Quindi molte infermiere, molti infermieri sono costretti a lavorare nella situazione pericolosissima, senza i supporti sufficienti per la loro sicurezza. Secondo me, loro si stanno accorgendo sia la pericolosità di questo governo, sia che lo Stato prova a lasciare morire o ad uccidere loro. Si può trovare qualche articolo dove la loro sofferenza, la urla, la voglia di fuga si esprimono. Insomma, infermiere e infermieri saranno considerate come una parte del popolo abbandonato e sacrificato. Anche a livello popolare ci sono le attitudini discriminatorie, a volte offensive, che considerano loro come i corpi infetti. La situazione terribile è da odiare. Certamente, come in Italia, ci sono tantissime lavoratrici e lavoratori che non hanno la scelta che lavorare per il guadagno, per pagare l'affitto e per comprare i cibi, anche se non ci sono misure di protezione sicura adottate dai padroni nei posti di lavoro per ridurre il rischio di contagio. Particolarmente i settori di circolazione e di cura non si fermano. Il supporto da parte del governo di Abe è assolutamente insufficiente per la classe di lavoratore. Questo potere centrale è separato dagli abitanti o dal popolo, come la comunità recintata ed è integrato con i grandi capitalisti e quelli di conoscenza, solo si sforza di fare mostrare al popolo e al mondo che la situazione giapponese non è grave. Ora concludo. Devo sottolineare quanto segue. Abbiamo già visto questa cosa molte volte, almeno in questi anni, su Fukushima dal 2011, cioè l'esplosione dei centrali nucleari di Fukushima e in conseguenza la diffusione molecolare di radioattività. Il governo, anzi lo Stato, ha sottovalutato incredibilmente la situazione della contaminazione di materiale radioattività a Fukushima e nelle altre aree, tra cui Tokyo, solo per ritenere le Olimpiadi. Lo Stato sta facendo vedere che Fukushima è ricostruito e anche adottando la politica di far ritornarci i rifugiati da Fukushima. Ecco di nuovo la politica di abbandonare il popolo. Anche ci sono rifugiati autonomi che sono stati fuggiti all'area considerate come sicure dal potere. Loro sono stati già abbandonati dal quadro del sostegno e risarcimento di questo Stato. Ora con la diffusione molecolare del coronavirus si ripete questo. Grazie mille. E eccoci in diretta. Ci domandavamo per esigenze redazionali e anche per non lasciare che si scaricano le batterie dei potenti mezzi che abbiamo a disposizione sparpagliati per il mondo, di passare subito la linea all'Irlanda e in particolare a Dublino. Dublino, ci senti? Vi sento forte e chiaro. Buongiorno Dublino, ci puoi dare anche tu un aggiornamento sulla situazione lato irlandese? Certo, allora l'Irlanda è un paese che ha effettuato il lockdown appena sono saliti i numeri di positivi, non ha aspettato a lungo come ha fatto invece lo UK e si vede il riflesso di questa scelta anche nei numeri di morti che ci sono stati qua, per quanto non mi metto a elencare i numeri perché sono molto ridotti rispetto a quelli italiani e farebbero meno impressione volendo, però andrebbero ricondotti al fatto che l'Irlanda sono 4 milioni e mezzo di persone. il tasso di positività al virus è di 49 persone ogni 10.000, quando in Italia si parla di 36 ogni 10.000. Quindi la situazione non è stata particolarmente semplice anche qua, per quanto su una scala ovviamente minuscola, tutta l'Irlanda starebbe dentro Roma, per dare una proporzione. E adesso siamo per arrivare alla fase 2. Da lunedì questo entriamo nella fase 2, ovvero termina il nostro lockdown più duro, dove non potevamo uscire se non per andare al supermercato, e possiamo cominciare ad uscire, andare nei parchi, e possiamo cominciare a vedere le persone all'aperto, eccetera, eccetera. Quindi la situazione qua è stata presa abbastanza in fretta, diciamo così, dal punto di vista, c'era preoccupazione che il sistema sanitario non potesse reggere, perché c'è molta privatizzazione del sistema sanitario anche qua, e quindi si sapeva che il sistema pubblico non avrebbe retto facilmente una grossa ondata, e questo è stato uno dei motivi per cui hanno preferito chiudere subito. C'è da dire anche che l'Irlanda si trova in una situazione particolare, non c'è un governo ufficiale, perché ci sono state le elezioni giusto prima il lockdown, e aveva vinto Sinn Féin queste elezioni, ma non aveva i numeri per fare un governo. Quindi in questa situazione di similstallo, per cui non c'è un nuovo governo, chi ha perso le elezioni ha cercato di giocarsi tutte le carte simpatia che poteva, facendo un lockdown, dicendo ma questa volta saranno le banche a pagare il bailout dei cittadini. Hanno implementato, dopo 2 giorni di lockdown, una cassa integrazione per chi è on unemployment, per chi era a casa a causa Covid, quindi firmando un modulo ci si poteva appoggiare a un supporto statale dal punto di vista economico. Per cui la questione, ovviamente, ci sono stati i momenti di panico iniziale, gente che va nei supermercati a prendere la carta igienica a quintali come se fosse l'unica esigenza che si ha. Però poi, e all'inizio la gente ha fatto un po' fatica a capire che le restrizioni di lockdown significavano state a casa, per cui c'erano scene di gente che andava in spiaggia la domenica e si affollava il primo weekend, poi dopo hanno chiuso tutto e questo non è più successo. Però grazie alla tempestività, diciamo così, delle prime mosse, noi siamo entrati in questa fase di lockdown tipo 3 settimane dopo di voi, e adesso al pari di voi, da lunedì ci ritroveremo in una situazione in cui cominceranno ad aprire un po' più di esercizi, non saranno solo i supermercati, e si ricomincerà ad avere un po' più di vita, diciamo, intorno. Però chi può lavorare da casa continuerà a lavorare da casa, se lo smart working rimarrà un punto saldo per tutti quelli che possono. Senti, una considerazione interessante che avevamo fatto ieri chiacchierando era sul fatto che la popolazione irlandese, come dire, fosse abituata ad aspettarsi il peggio e dunque si sia comportata con molta cautela all'arrivo delle notizie. Sì, qua cioè, ovviamente cioè, è chiara e netta la sensazione che comunque il servizio sanitario non sia un granché, non ci sono grosse aspettative rispetto a quello che possa essere implementato dallo Stato, però ci sono, nei vari quartieri c'è ancora una forte anima comunque di comunità, un senso di comunità, per cui tra vicini ci si aiuta, e per cui senza aspettare magari le forme più organizzate che comunque ci sono state di volontariato per aiutare le persone più in difficoltà nei momenti di lockdown più duro, la gente, le persone, i vicini di casa si sono aiutati a cercare di fare mutuo soccorso, per cui il vicino anziano ha avuto subito il supporto del vicino non anziano per la spesa e per tutte le varie esigenze, per andare a ritirare le medicine nelle farmacie, per chi era diabetico e non poteva uscire. Tutte queste attività la gente se le è gestite un po' dal basso, devo dire, almeno per quella che è la mia esperienza poi diretta nel mio quartiere, è stato molto così, visto che poi non è che potevo andare in giro molto a ispezionare altro, potevo solo stare a casa nel mio giardino. E sì, devo dire che comunque la gente, conoscendosi nei quartieri, ha esercitato ancora questa difesa dal basso, di solidarietà dal basso. E il fatto che tu fossi italiano e dunque avessi notizie di prima mano dall'Italia, ci dicevi anche ti ha aiutato a informare la popolazione dublinese di quello che stava per succedere. Sì, come spesso accade quando succedono le cose brutte e si vedono alla televisione, riguardano gli altri e non riguardano noi. Quindi io, che ho ovviamente dei legami forti con l'Italia e con Milano, ho visto fin dall'inizio che cosa succedeva e lo vivevo più direttamente che i miei colleghi irlandesi, che ovviamente lo sentivano come una delle seconde notizie al telegiornale, il fatto di quello che succedeva in Italia. Per cui io Ho ovviamente cercato di far presente che non era semplicemente un problema dell'Italia o della Cina. Poi, guarda caso, nel mio team di persone a lavoro c'era un cinese e un italiano, per cui eravamo entrambi con chiare le idee rispetto a quello che poteva significare prendere sotto gamba la cosa. E essendo nell'IT, l'ambiente in cui lavoriamo, lavorare da casa era una possibilità possibile anche prima ed è diventato il quotidiano abbastanza in fretta per noi, anche prima che lo Stato si muovesse. E adesso è così e sarà così per un lungo tempo. Nessuno si aspetta una data di rientro in ufficio. Da quello che so, da tutte le persone che conosco, non solo nel mio ambito, nel mio ufficio, ma da tutte le conoscenze che ho di gente che lavora da casa. Per cui sì, si è lavorato molto a cercare di far capire, ecco, all'inizio. Arrivando dalla Cina, un mio collega era in vacanza in Cina quando sono successe le cose a Wuhan, è tornato, si è fatto la quarantena volontaria. Anche questi piccoli gesti sono stati dei segnali per gli altri, dire: ah, vedi, non è, cioè, non puoi solamente dire che bravo lui, in lei che l'ha fatto, ti accorgi che c'è qualcosa che succede e che sta arrivando molto vicino, perché è il tuo collega di scrivania che arriva dalla Cina. Beh, grazie infinite, un abbraccio e un saluto. Grazie a voi e buon lavoro, buon proseguimento. Grazie mille, anche a te. E passiamo a Parigi? Se passiamo a Parigi e abbiamo Parigi in ascolto con Ray, potremmo riagganciarci alla questione telelavoro. Infatti anche Ray fa un lavoro che immagino si sia spostato completamente nel lavoro da casa, se già non lo fosse prima. Ray, ci sei? Sì, ciao, ciao. Sì, Ciao. confermo che effettivamente il mio lavoro si è traslato totalmente a casa e anche quello, per dire, di mia moglie che non lavora nel reparto informatico, ma fa un altro tipo di lavoro, anche lei per fortuna si è trasformata totalmente in remoto, ecco. Sì, quindi allora, faccio una piccola premessa perché più il tempo andava avanti, più mi sentivo fortunato e quindi volevo chiarire questa cosa qua, nel senso che effettivamente io sto affrontando questa emergenza qua da un posto abbastanza privilegiato. Innanzitutto perché ho avuto la fortuna di andare in vacanza 10 giorni, poco prima che il lockdown venisse fatto in Francia. Quindi quando sono tornato qua a Parigi, dopo la vacanza, ero, diciamo, rigenerato da questa cosa, quindi il fatto di starmene a casa non mi pesava più di tanto. E poi l'altro due vantaggi che ho avuto per affrontare questo blocco totale è stato il fatto che il primo, appunto, che sia io che mia moglie facciamo dei lavori che possono essere svolti tranquillamente da casa, e secondo che in casa nostra ci siamo solo noi, non abbiamo né bambini né anziani o persone da curare. Quindi in realtà abbiamo affrontato questa cosa qua nella nostra quiete casalinga, ecco. Di E contro. ci dice. Sì, no, scusa. Invece di contro, una cosa un po' difficile, devo dire, è stata un po', non in modo particolare, però Vai e essendo italiana. vieni, sentendo a scatti. Ci Ah, scusate. dicevi? Sì, dicevo che nell'ufficio invece di mia moglie, il fatto che lei fosse italiana e oltresì di Milano ha creato molte tensioni nel suo ambiente di lavoro, perché le sue diciamo che nel parlare con le quali sembrava che l'epidemia la stessero diffondendo gli italiani in tutta Europa, e in più fisicamente poi molte persone magari non volevano stare a contatto con lei, oppure la prendevano come una specie di pazza paranoica perché lei aveva già iniziato ad usare la mascherina, i guanti in ufficio, e la gente la guardava quasi come se appunto fosse fuori di testa. Hanno velocemente cambiato idea. Sì, una settimana dopo le hanno dato ragione, alcune le hanno chiesto addirittura scusa, un'altra è scappata proprio dall'Europa e è tornata in Brasile perché stava troppo male, l'idea di stare chiusa a Parigi bloccata. Quindi, insomma, l'inizio è stato poi, dal mio punto di vista personale, tranquillo. Dal suo è stato un po' più burrascoso. Senti, Al di e là di questo. adesso. Scusa? Vai, dimmi scusa. No, ti volevo Dimmi, dimmi. chiedere solo, adesso invece come va la situazione a Parigi? Noi domani possiamo andare a messa, finalmente. E voi? Allora, sulla messa effettivamente non mi sono ancora informato, mi spiace. Per quanto riguarda il resto, questa è stata la prima settimana in cui le attività hanno iniziato a riaprire e la gente ufficialmente poteva tornare al lavoro. Anche se lo Stato francese ha chiesto di chi poteva fare lavoro da remoto, continuare a farlo. E infatti io effettivamente potrò tornare in ufficio a giugno, cioè la mia compagnia ha detto no, state bene a casa fino ai primi di giugno. E comunque il tornare in ufficio non sarà più ovviamente una cosa normale, ma sarà diviso in gruppi, massimo di persone nell'open space possibile, eccetera, eccetera. I negozi hanno riaperto, bar che fanno solo da sport, altre attività anche tipo la lavanderia, cose così. E si è capito che la società, diciamo, sta un po' ripartendo perché dal flusso di macchine che è iniziato ad essere in giro per la città. Perché mentre prima sembrava quasi di essere una città deserta, adesso il flusso di macchine è aumentato di parecchio e si nota anche proprio una qualità dell'aria. Piccola nota che io non ho ancora capito bene il perché, i parchi sono ancora chiusi qua a Parigi. Il resto della Francia invece è già in una situazione, diciamo, gialla, arancione in Parigi e Île de la Cité è ancora rossa, proprio perché per via della sua alta densità di popolazione. Grazie mille, Ray, da Parigi. Abbiamo un altro contributo da Un Parigi, piacere. giornata ricca per quello che riguarda la situazione francese. Ray, non te ne andare, rimani con noi comunque. E il Sì, secondo sì. contributo arriva invece dalla banlieue parigina, una banlieue particolare che è Montreuil, lo mandiamo in onda. Allora, io vivo a Montreuil, che è nella parte est, appena fuori Parigi, è una zona rossa, è sempre stato comunista e estremamente attento all'ecologia, quindi abbiamo dei giardini condivisi con degli orti, teatro, cinema, è un luogo interessante, dove diciamo, il ritmo di vita è un po' più calmo rispetto a Parigi. Ci sono ancora delle cité, delle case popolari con un numero di abitanti molto molto alto e ci sono delle realtà gentrified come la zona dove abito io, dove le piccole casette operaie sono state riprese da famiglia, gli atelier d'artisti sono inseriti nella parte industriale. E vivere il Confinement a Montreuil è diverso rispetto a vivere al centro di Parigi. Prima di tutto perché abbiamo più spazi verdi. Io sono particolarmente fortunata perché vivo in una copro, quindi un gruppo di persone hanno costruito insieme un ambiente con esterni e interni condivisi, più ognuno ha il suo appartamento. E come l'ho vissuta? Beh, per me è stato un periodo molto sorprendente. L'inizio direi drammatico, sono lombarda, ho studiato a Bergamo e qui nessuno ci credeva, era come qualcosa di lontano che comunque non sarebbe arrivato e dall'altra parte avevo la mia famiglia e tutte insomma, le informazioni dell'Italia estremamente drammatiche. E in questa confusione ho cercato di trovare un equilibrio. Dopodiché è arrivato anche qui il lockdown, che è stato molto molto più soft rispetto a quello che avete vissuto voi in Italia. Noi comunque avevamo diritto a uscire un'ora al giorno per 1 chilometro di distanza, ma onestamente nessuno andava troppo a controllare. Il senso di gravità qui è stato sentito molto meno, cioè è stato percepito da molti come una restrizione necessaria. Però non ho sentito la stessa partecipazione che ho sentito in Italia. La gestione non è stata per niente buona dal punto di vista politico, drammatico, oserei dire. Hanno voluto far andare le persone alle urne per votare proprio quando la situazione stava all'apice. Però è tutto un po' surreale, nel senso che sappiamo che questa cosa esiste, però è come se fosse lontana, anche se non è vero. Però gli ospedali non si sono riempiti come in Italia, la situazione non è arrivata a quel limite. E infatti il deconfinamento ora è assolutamente caotico e non siamo obbligati a portare maschere, quindi qualcuno porta, qualcuno no, nessuno sa come portarla. Possiamo fare incontri a 10 persone massimo in uno spazio chiuso e la gente tendenzialmente ha ripreso a vivere non come prima, però insomma in modo abbastanza casual. Che posso raccontarti? A Parigi la difficoltà più alta è stata per le persone che vivono in piccoli appartamenti, la maggior parte di noi vive in case minuscole e siamo fuori sempre, cioè uno vive in città, approfitta di musei, spazi, biblioteche, co-working, quindi moltissimi hanno case piccole, piccole con anche bambini e si sono ritrovati nella situazione abbastanza pesante di vivere questo periodo chiusi in uno spazio che è invivibile. E io questa cosa qui ovviamente non l'ho sentita e ci sono tante cose ovviamente negative legate al lockdown e credo che sia uguale anche da voi e qui si chiama Confinement. E ovviamente ogni classe sociale l'ha vissuto differentemente, quindi i più abbienti sono partiti nelle case di vacanza, quindi i quartieri ricchi chic sono svuotati completamente, il centro di Parigi era meravigliosamente vuoto, non ci sono turisti, non c'è nessuno. Io legalmente non potevo andare a Parigi e ho fatto una fughetta in bicicletta, ammetto. E c'erano un po' di controlli di polizia e i controlli di polizia, la verità, che erano quasi tutti nei quartieri ricchi, come per dire da noi dove c'è casino, la gente vive negli HLM, non ci vengono. È molto curioso perché proprio ognuno ha vissuto questa esperienza in modo differente, ma la città ha respirato tantissimo. Cielo blu, meraviglioso, uccelli, spariti i rumori delle macchine, una pace che io a Parigi non ho mai visto, è un cielo pazzesco, pazzesco, meraviglioso. E questi, insomma, sono dei lati buoni. E poi, dal punto di vista più personale mio, appunto, nel contesto di Montreuil, questa è stata un'occasione per valorizzare questo ideale cooperativo che nella vita quotidiana c'è, però è forse meno importante e che questo momento è diventato fondamentale. Abbiamo iniziato tenendo molta distanza, però ogni mattina facevamo yoga sul tetto tutti insieme, poi è scattato tutto un sistema di aiuto per la gestione dei bambini perché i genitori potessero lavorare e ognuno di noi ha dato alla comunità quello che sa fare. E quindi giardinaggio che quest'anno è diventata l'attività di tutti noi. Stiamo piantando orto per cercare di sopravvivere l'estate. Abbiamo fatto un atelier di ceramica. Io mi sono occupata dei bambini facendo un atelier dove ho chiesto loro di raccontare il confinamento e poi di fare dei disegni che si ispirano un poco a quello che loro hanno vissuto personalmente, e tutto poi coronato da una mega merenda con 200.000 biscotti. E quindi ecco, il mio Confinement è stato pieno di queste esperienze, una vicina che conosco appena, che è venuta a tagliarmi i capelli, proprio tanti piccoli momenti preziosi di vita insieme e ammetto che sono stata sempre meglio, ogni giorno meglio. Ho fatto un progetto personale di confinamento, io sono fotografa e quest'anno avrei dovuto avere mostre e lavoro e tutto è saltato e quindi ho deciso di fare una foto al giorno metaforica di come mi sentivo mettendomi in scena ed è una cosa che non ho mai fatto, quindi mi sono buttata in una cosa nuova, molto sincera. E poi ho fatto un progetto sui miei vicini, fotografandoli uno per uno nelle proprie case. E il risultato è molto interessante. Non so che cosa farò di questi lavori, ma è stato un modo di vivere il confinamento veramente al 100%. E l'ultima cosa che ho fatto e di cui sono super fiera, ho creato subito all'inizio un gruppo yoga virtuale a distanza. E ho connesso una serie di amici che sapevo avrebbero vissuto questo momento, diciamo, con un arresto fisico completo, e li ho convinti a fare un corso di yoga per motivated beginners. E in questi 2 mesi abbondanti li ho visti proprio crescere, e ha fatto questo corso di yoga è diventato un corso di sostegno solidale. Ognuno poi rimaneva, chiacchierava e tirava fuori le proprie emozioni. Ed è stato molto bello perché una parte era qui a Parigi, qualche amico dagli Stati Uniti, un'amica in Svizzera, un'amica in Italia. E quindi è molto strano perché sì, io sono stata confinata sola e ci sono stati dei momenti di solitudine, soprattutto mangiare sola sempre, addormentarsi soli, svegliarsi soli, insomma, non è stato facile. Però poi di contro credo che sia stato un momento di condivisione molto bello, in cui i valori in cui credo li ho messi proprio davanti, e questo mi ha fatto sentire molto bene. Grazie Susanna, facciamo un grosso abbraccio, grazie ancora. Ecco, Grazie a voi. allora abbiamo visto la Francia e adesso spostiamoci in un altro paese d'Europa. Victor, ci sei? Sì, ci sono, a vostra disposizione. Ecco, Ciao, allora. allora vai, vai, vai. Ciao, allora parliamo con Victor Seri, che è in questo momento a Barcellona, per farci raccontare un po' da lui quello che è successo negli ultimi mesi, come sono stati vissuti questi mesi, questo periodo di quarantena in Catalogna e anche nel resto della Spagna. Ciao, allora, diciamo, lo stato di emergenza dello Stato spagnolo è stato emesso per la prima volta il 13 marzo, quindi parliamo più di 2 mesi fa. La parte previa era, diciamo, abbastanza curiosa perché arrivano notizie dall'Italia, però non venivano assolutamente considerate né dal dibattito pubblico, e giustamente la dinamica che è un po' successa a tutti era di vedere una situazione come abbastanza strana per alcuni. Venivano visti gli italiani come dei possibili intorni. La cosa rapidamente, dopo il primo lockdown, quindi il primo stato di emergenza del 13 marzo, ha cambiato il punto di vista di tutti e abbiamo potuto assistere a una serie di fenomeni interessanti a livello politico e sociale. Allora, la prima cosa è definire come è stato il lockdown, lo stato di emergenza che obbligava i cittadini residenti sullo Stato spagnolo è avanzato per gradi, partendo da una prima chiusura essenzialmente delle attività commerciali, dei bar, ma non dei posti di lavoro come, non so, uffici, redazioni, officine e quant'altro, in cui veniva chiesto a tutta la popolazione di rimanere a casa. Lì abbiamo assistito alle scene di attacco ai supermercati, solo si poteva uscire per comprare o per andare all'ospedale, e dopo 2 settimane si è deciso di arrivare a un lockdown completo in cui venivano chiuse anche tutte le strutture lavorative che non erano essenziali per la catena principale. Una cosa che è durata poco, solo 2 settimane, perché poi si è ritornato alla fase iniziale, considerando che più o meno già si era arrivati al picco delle persone contagiate dal coronavirus. Contemporaneamente si è continuato ad abbassare, ora siamo entrati in un complesso, come dire, processo di desconfinamento, quindi di uscita dal lockdown, che sta strutturato in 5 o 6 fasi. Attualmente la maggior parte dello Stato spagnolo è nella cosiddetta fase 1, in cui tutti possono, diciamo, uscire per andare al bar. Ci sono comunque alcune zone come Barcellona, città come Madrid, che restano nella cosiddetta fase 0, in cui semplicemente si può uscire in un orario determinato, quindi fino alle 10 del mattino per tutte le persone che vogliono fare sport, o dopo le 8 di sera fino alle 10 di sera, e nell'arco della giornata invece possono uscire infanti in orari distinti in funzione dell'età che hanno. fino a arrivare ai 14 anni, 15 anni. Quindi è una situazione territorialmente complessa ed è importante considerare anche che lo Stato spagnolo sulle questioni territoriali ha sempre una serie di problemi. Certo, infatti proprio su questa questione territoriale, non solo, poi ne parleremo ancora dopo. Volevo farti un'altra domanda invece su come un po' cosa si prevede per i prossimi mesi, per quest'estate, per anche come sappiamo dal punto di vista poi economico e la questione del turismo, insomma, cosa sta succedendo ora, diciamo? Allora, la previsione su quello che succederà riguardo al turismo è abbastanza complessa, anche considerando com'è la struttura turistica di città come Barcellona, in parte dello Stato spagnolo, che è basato essenzialmente sul turismo straniero, quindi esterno agli abitanti, diciamo, dello Stato spagnolo. Quindi si sta pensando a come cercare di incentivare il turismo esterno, che in parte però è mezzo bloccato da queste fasi di confinamento. Infatti, fino a probabilmente metà luglio, buona parte delle persone di Madrid e Barcellona, delle due capitali principali, non potranno uscire dalla loro provincia. Quindi non potranno andare in nessuna o casa di villeggiatura o andare in vacanza al mare o quant'altro. Perché giustamente nella prima fase si può stare nella propria città, nella seconda fase si può iniziare a muoversi all'interno della provincia e le cose vanno così pian piano. Quindi a livello turistico questa cosa non solo colpisce il settore, diciamo, alberghiero, ma colpisce anche e soprattutto il settore immobiliare, che è quello che prima del confinamento, prima del lockdown, era fortemente legato all'entrata di capitale straniero da parte di turisti che venivano dal nord Europa e affittavano tramite piattaforme come Airbnb, case di vacanze che avevano un valore molto, superiore rispetto al prezzo di mercato per le persone che avevano un affitto ed erano residenti in città come Barcellona, un caso di cui abbiamo parlato. Quindi ora si cercherà in qualche modo di incentivarlo a livello interno. Il problema è che non si è ancora ben bene definito come, e si sta vedendo essenzialmente che questi 2 mesi hanno già dato un colpo durissimo a buona parte di questo settore che essenzialmente faceva speculazione immobiliare a mansalva. Quindi vedremo quello che deciderà di fare il governo dello Stato spagnolo, che nel mentre ha cercato di ricentralizzare tutti i poteri di decisione territoriale, di decisione politica, di decisione sanitaria, applicando anche un'interessante militarizzazione e propaganda dell'esercito stesso. Nelle conferenze stampa parlavano il capo di Stato, no, il capo di Stato, il re ha fatto solo un discorso, però il primo ministro Pedro Sánchez, socialista, il ministro Salvador Illa della Sanità, e poi parlavano curiosamente il capo della Polizia Nazionale, il capo dell'esercito della terra spagnola e il capo della Guardia Civile, l'equivalente dei Carabinieri. Quindi un processo abbastanza complesso di unificazione territoriale e poi anche di rigestione del territorio interno stesso. Sì, anche qui in Italia, tra l'altro, si è parlato moltissimo della questione turistica, come puoi immaginare, anche perché, come dire, dal punto di vista del paese ha una forte funzione dal punto di vista economico e quindi ci sono un sacco di punti di domanda. Quindi anche lì si sono poi viste queste immagini delle auto in affitto abbandonate a Tenerife e in altri posti abbastanza impressionanti. Invece, tornando alla questione territoriale, ci interessava capire un attimino quanto invece la questione del virus, l'epidemia, lockdown e militarizzazione, come di cui tu parlavi, ha influenzato, ha influito sulla questione che è tuttora in corso e molto forte tra la questione, come dire, catalana, la questione dell'indipendenza e la questione del resto dello Stato spagnolo. Beh, diciamo che c'è stato soprattutto per il mese e soprattutto per le prime 2 settimane un braccio di ferro tra il governo catalano e il governo centrale, non solo il governo catalano ma anche il governo di Euskadi, quindi dei Baschi, in cui chiedevano un lockdown più duro da parte del governo centrale, che invece continuava a mantenere i posti di lavoro aperti e quant'altro. Curiosamente, dopo queste continue richieste, che poi sono state applicate e poi tolte rapidamente, si è mantenuta questa situazione un pochettino di tensione a livello della volontà da parte dei catalani di avere forse un pochettino più voce in capitolo rispetto alle decisioni almeno del proprio territorio. Infatti, questo processo di centralizzazione in cui tutti i poteri venivano dati al governo dello Stato centrale per la decisione anche come dire, della descompinamento, quindi della caduta del lockdown, mantiene ancora questa tensione. Ora, attualmente, le varie province che vogliono uscire dalla situazione di lockdown devono chiedere permesso allo Stato centrale di Madrid, che decide se darlo o no in funzione non di parametri solo sanitari, ma della decisione del task force centrale. La cosa è abbastanza curiosa perché giustamente si vedono richieste improbabili che sono state fatte nella prima settimana in cui si iniziava a ridurre la rigidità del lockdown da parte di Madrid, che è stato il focus principale di casi e anche di morti per il coronavirus. Quindi si mantiene questa tensione territoriale sulla gestione sanitaria, sulla gestione anche di uscita dal territorio e vedremo come continuerà questa possibile tensione, soprattutto per quello che riguarda poi la gestione economica. Prossimamente questo governo socialista di coalizione con Podemos dovrà affrontare la legge finanziaria in cui avrà bisogno dei voti degli indipendentisti, in una situazione economica fortemente complessa. Quindi vedremo, come già è stato detto da alcuni rappresentanti politici della sinistra indipendentista, quanto sono interessati veramente a portare avanti questo governo o se semplicemente vogliono gestire in qualche modo l'emergenza e tramite ricatti politici poi cercare di portare avanti una linea politica che se inizialmente quando c'è stato il primo governo nelle pagine italiane veniva raccontata come un ritorno a una Spagna rossa, mostra che in realtà è un ritorno al cosiddetto turbo liberal. Ok, Vic, ti ringrazio molto per la testimonianza. Adesso passo la parola a Omot che ci introdurrà sull'intervento sull'Australia. Esatto, è caduto il turbo liberale, ha battuto il segnale di Victor. Lo ringrazio anch'io, intanto lo saluto se mi sente. E a volo d'uccello dalla Spagna passiamo all'Australia. Devo dire che a commento ci sono delle ricorrenze in questi rapporti che abbiamo dai vari paesi, che sono uno le questioni del rapporto tra i governi centrali e i governi locali e ancora più, come dire, la risposta locale di quartiere su alcune questioni come dire, di supporto, d'aiuto e di mutuo soccorso. E l'altra cosa è la rilevanza del occhio puntato sull'Italia, cioè in qualche modo l'Italia ha costituito ha occupato un ruolo importantissimo nella costruzione dell'immaginario legato a questa pandemia a livello mondiale. Dico solo che se l'Italia ha avuto molti morti, diciamo che il 50% di questi sono in Lombardia. Lo sappiamo, quindi, come dire, ancora una volta la Lombardia nel mondo occupa un'importante posizione. Marco Fusinato, artista australiano di origini italiane, nel 2015 ha esposto alla Biennale un volume di riproduzione di pagine di riviste e bollettini prese dall'archivio Primo Moroni e ha così dato vita alla più grossa colletta artistica, diciamo in forte polemica col mercato dell'arte, che la Biennale abbia mai ospitato. Nel 2021 ci dovrebbe essere un'altra Biennale e lui è nominato come il rappresentante per l'Australia in questa manifestazione, se mai ci sarà. Gli abbiamo chiesto una descrizione di quello che succede nel suo paese e può spartire l'audio. I'll just fill you in to the response to the COVID pandemic here from Melbourne in Australia. So I suppose around March, when news started breaking out from Italia, from Veneto, and especially from Lombardia, about the Vorrei breakout dargli in delle informazioni riguardo alla domanda sulla pandemia di spread Covid qui da of the Melbourne, in virus Australia. Penso into che Europe, fosse marzo, quando particularly i media iniziarono a with parlare Italy, dell'Italia, del Veneto, in particolare della felt like Lombardia, a then proposito del the governments diffondersi here dopo Wuhan del recognized virus in Europa e in particolare appunto where in many of them Italia. stopped flights coming Abbiamo avuto from l'impressione China all'epoca che il governo qui prendesse in seria and considerazione la cosa. closely monitored Immediatamente Portugal and bloccarono i Spain voli provenienti dalla and Cina e si Italy iniziarono a monitorare e a riferire su and ciò che accadeva in seemed to Italia. spiral out of control Sembrava quickly. che il virus And so propagasse e che la situazione andasse fuori controllo molto responded velocemente. Così il quickly and governo heavily australiano saying, "No, the rispose situation here is that duramente e the federal rapidamente. government for all of Australia, but then Australia is divided into states Qui abbiamo un governo federale per tutta l'Australia, ma la stessa è divisa in stati ed ogni stato ha la sua giurisdizione. Così, per esempio, io sono a Melbourne, nello stato di Vittoria, che, per semplificare, ha un governo democratico, ma il governo federale australiano è in mano al Partito Repubblicano. Tra loro c'è una certa tensione. What's happened is that the state governments Quello che control accade certain è che il governo statale controlla certe cose e il governo federale ne things. So the federal controlla government altre. decided to go into a lockdown which wasn't so tight, but the Il Victorian governo government federale ha deciso di adottare un lockdown non molto rigido, as it mentre il governo unfolded in statale di many parts of Vittoria, Europe, dove abito, voleva un lockdown più stretto. E così, come è avvenuto in Italia e in altre parti d'Europa, qui la risposta è diventata più dura. Ci fu la chiusura introdotta ad aprile, che impose a tutti di stare a casa. Certo, si poteva andare al supermercato, andare dal dottore, e poteva andare a lavorare solo chi fosse strettamente necessario. Per esempio, andavano quelli che lavoravano nella sanità. And I feel like people are really La mia impressione è che le persone siano realmente rimaste a casa. and C'è stato qualche particularly problema con gli equipaggi delle navi o con chi doveva that tornare has been dall'estero, quite ma le severe, frontiere sono but state some chiuse e people molto re-entering controllate. for example cruise ships or people re-entering the country. But as soon as the borders were closed here, it was very controlled. For example, today I just looked up the figures. In Australia, Ad oggi, there's ho qua been i numeri, in Australia abbiamo avuto 17,000 un totale di cases, 7.000 casi, which di cui 6,300 6.300 sono have guariti. recovered. In all In of tutta Australia, l'Australia ci 18 sono deaths, stati 98 morti, 18 dei 18 quali of nello those stato in cui being in the vivo. state where I live. E certo molta So there's still gente, a lot ma of niente a people, che vedere con quello che è successo da voi. nothing like what's happened there with Al you. momento, dopo At the 5 o 6 moment, settimane di for the questo last 5 or lockdown, 6 i weeks, ragazzi sono rimasti a casa e hanno the fatto le lezioni children scolastiche being da casa. home and having Questo, been quelli che potevano farlo, che living avevano un homeschooled in computer cottages, loro o a cui lo that's where forniva kids la can scuola. afford Gli all altri their ragazzi hanno materials and continuato ad andare a set up scuola, dove rights. c'era un numero molto If not, ridotto di some kids were allowed to insegnanti, go to e hanno school with potuto very small continuare da lì la loro educazione. staff, only a few teachers there, but they can continue with their education there. Things like Per le persone senza homeschooling, casa, gli I think homeless, è giving stato people a messo a place disposizione un to sleep, posto, un like albergo o hotels qualcosa or di something, simile, so they're not on the così che non streets. stessero sulle It's very strade. interesting that these kind of È conservative strano che questo governments governo using conservatore abbia adottato socialist dei principi di principles tipo socialista e abbia dato and giving cospicui contributi alle large imprese e ai payouts lavoratori to per evitare il companies collasso. and workers. Va detto Having che non said tutti that, hanno ricevuto if dei you soldi, ma don't want this questa money, richiederebbe più very, very tempo. specific Il punto caring. è che adesso, That's for a longer quando term alcune restrizioni solution. sono state tolte, per esempio, si possono What I want raggruppare now fino a 10 is some of those persone, a patto che restrictions abbiano being molto spazio lifted, attorno. meaning Dicono che le that scuole torneranno a funzionare in tutti gli gathering of stati up tra to 2 10 people, settimane per i più piccoli with e per space gli altri around them, ragazzi tra 4 could meet. settimane. There's talk Ossia, that I will tutto è soon be going scaglionato. back in this state in 2 weeks' time Apriranno i for younger negozi, ma children, l'accesso sarà and then permesso the other solo a state poche for 4 persone per weeks' time. volta. So everything will be I ristoranti non sono ancora within the aperti state e i caffè allowed funzionano ancora come takeaway. shops and so on, but only a few people allowed in at a time. Restaurants are still not open, cafes and so on Il can open governo ha during the messo week. miliardi di dollari a supporto dell'economia per cercare di far Government andare has avanti le put cose. billions of dollars Chissà se davvero le cose si sistemeranno nei try and prossimi keep mesi. things going. Possiamo immaginare che ci saranno un Who sacco di knows how that stuff complicazioni will una really play volta che out gli in the aiuti next month. governativi si interromperanno, e Whether cioè there's going to be a tra lot un of 2 o 3 mesi. coalitions once È those tutto government molto poco mandates chiaro e stop. Remember, sconosciuto. stopping 2 to 3 C'è molta months preoccupazione e all visibility of this tensione, stuff in is particolare tra chi ha really meno. unknown. And there's a lot of concern and tension, especially, of course, from people in the sectors who have less. Io penso che le cose che stiamo capendo fino ad ora sono che ci aspettano tempi incerti. Non si può ancora viaggiare tra i diversi stati dell'Australia, non ci sono voli al momento. L'industria aeronautica e le compagnie aeree sono in grande crisi e le frontiere sono chiuse. The airline industries have really shut down, the borders are closed. The concern here, of course. C'è anche preoccupazione per i diritti personali. Il governo vuole che le persone si installino una specifica app, così da poter controllare se sei vicino a qualcuno che ha il Covid. Su questo tema è in corso una protesta, perché le persone sarebbero completamente controllate e l'autorità conoscerebbe tutti i tuoi spostamenti. Cioè, alcune delle misure che vengono prese oggi potrebbero avere ramificazioni a lungo termine. Dunque possiamo solo dire, vediamo quel che succederà. Ecco, anche l'Australia. Allora ci muoviamo ancora un po' e ci spostiamo in Cile. È l'ultimo contributo dall'internazionale che abbiamo e finisce questa lunga prima parte della trasmissione ed è un contributo della rete internazionale in difesa del popolo Mapuche sul Cile. Può partire la... Ciao a tutti e a tutte. Grazie per questa possibilità di condividere con voi cosa succede in Cile a 7 mesi della rivolta e in tempo di pandemia. Quando i cileni e le cilene hanno deciso di scendere in piazza e nelle strade a protestare il 18 ottobre dell'anno scorso, è stato tutto per la ingiustizia e per la miseria che hanno vissuto per tanti anni e che si vive ancora oggi in questo sistema neoliberista lasciato da Pinochet. Ma purtroppo solo oggi alcune persone cominciano a rendersi conto della disuguaglianza, dell'avarizia e della mancanza di opportunità. In questi giorni l'aumento di contagio per Covid-19 in Cile sta peggiorando la situazione socio-economica di un paese ridotto in ginocchio. Molte persone già non possono lavorare per le misure di confinamento e quelli che sono costretti a lavorare affrontano il rischio al contagio. Il governo di Sebastián Piñera ha stanziato un bonus emergenza di 65.000 pesos, un equivalente a 80 euro, per le famiglie che purtroppo non risolverà il problema reale della popolazione cilena. Un bonus emergenza che nel secondo mese sarà ridotto a 55.000 pesos, che equivale a 67 euro, e al terzo mese un bonus emergenza di 45.000 pesos, che equivale a 57 euro. Un bonus vergognoso che ancora una volta indigna il popolo cileno, perché un diputato, una diputata in Cile, guadagna 9 milioni di peso, che equivalgono a 11.000 euro. I disoccupati, gli operai dei cantieri, i contadini e le casalinghe sono le categorie più colpite. Los campamentos, le baracche hanno aumentato significativamente con 46.000 famiglie che vivono in alcune delle 822 occupazioni di terreni illegali in Cile. Il governo cileno si mantiene sordo, cieco di fronte a un sistema di crollo che nuovamente scoppierà per le politiche inesistenti e nefaste che sono state fatte per i poveri di sempre. Ricordiamo che Cile non conta con un sistema di salute pubblica. Questa è una lotta storica che è stata portata nelle strade e nelle piazze di tutto Cile per denunciare la privatizzazione della salute come una merce economica che si possono permettere di pagare in pochi e non come un diritto universale alla vita delle persone. Si continua a lottare per un sistema di salute pubblico degno gratuito y de libero acceso per tutti e per tutte. Questo 24 marzo il governo cileno decreta il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 del mattino come una misura di sicurezza, secondo loro, per la pandemia del Covid-19, lo quale sappiamo bene è stata una misura inutile e senza fondamenti, che è servita solamente per perpetrare ancora di più repressione contro la popolazione cilena. Invece, questo venerdì 15 maggio, il governo ha decretato la quarantena nazionale a causa dell'aumento significativo dei contagi che sono aumentati dal 60% negli ultimi giorni. Una misura che era stata chiesta tante volte fortemente dal popolo cileno e che non è stata mai ascoltata di questo governo, che ha continuato a stare a fianco degli interessi economici di quelli di sempre. È una misura che arriva con troppo ritardo, dopo 2 mesi dall'inizio dei primi casi di contagio in Cile, in cui le attività economiche, commerciali, i mercati all'aperto, i parchi e i mezzi pubblici non sono stati mai chiusi. Le organizzazioni sociali in questo contesto di emergenza sanitaria per la pandemia del Covid-19 stanno giocando un ruolo fondamentale in questa crisi che fortemente colpisce dal punto di vista economico per la sospensione delle diverse attività lavorative in tutto il paese. Lo slogan in questi tempi di pandemia in Cile: solo il popolo aiuta il popolo, è la dimostrazione della solidarietà costruita dal basso, attraverso dall'auto-organizzazione di collettivi autonomi e popolari, e dello stesso popolo che si è organizzato nei propri quartieri con la raccolta alimentaria e di medicinale, e della olla comune, la pentola comunitaria che torna a Cile, questo simbolo della fame e della povertà nei tempi di Pinochet. La prima linea non è sparita e non ha abbandonato la lotta per la dignità. Diversi gruppi di giovani girano per Santiago, soprattutto nei quartieri popolari, per sanificare gli autobus e le fermate, anche per sanificare e pulire la metropolitana nel centro di Santiago. Accudono i senzatetti portando non solo del cibo, anche delle tende e sacchi a pelo di fronte all'imminente arrivo dell'inverno. Non vogliamo le briciole dello Stato che continua a umiliare le nostre vite, per cui la solidarietà costruita dalla collettività e della reciprocità delle persone è la testimonianza reale che la rivolta del popolo cileno va avanti e non si è mai fermato. E noi come Rete in Difesa del Popolo Mapuche continuiamo a sostenere i prigionieri e le prigioniere della rivolta cilena, che ancora sono più di 2.000 persone, la gran parte di loro sono giovani. In questo contesto di pandemia per il Covid-19 le misure repressive si sono intensificate, evidenziate nelle torture e nella repressione contro la popolazione carceraria, che stanno subendo le politiche oppressive e violente dello Stato cileno. A causa di questa emergenza sanitaria per il Covid-19, all'interno delle carceri cilene si sono attivate diverse campagne per esigere al governo il cambio delle misure cautelari dal carcere preventivo agli arresti domiciliari, ma il governo di Sebastián Piñera non ha manifestato minimamente l'intenzione di ascoltare le denunce per le condizioni disumane nelle carceri del Cile, per la mancata attenzione sanitaria e per tutte le esigenze dei e delle prigioniere e prigioniere politici e politiche della rivolta in Cile. Invece, alcune settimane fa, questo governo, insieme ai partiti della destra di Piñera, hanno concesso l'indulto a diversi ex militari della dittatura di Pinochet, che sono stati esecutori responsabili, assassini di tanti crimini di lesa umanità, come la tortura, de violaciones, los desaparecidos, las desaparecidas, e tante persone che sono state assassinate durante la dittatura di Pinochet. Di fronte all'inesistente responsabilità del governo e all'indifferenza sulla situazione critica, molti recinti penali si sono ammutinati con tanto di rivolte contro il sistema carcerario inutile e nefasto che le sta privando della propria libertà. E tanti detenuti hanno deciso di cominciare lo sciopero della fame in diverse carceri di Santiago, anche nel sud del Cile, e anche tra di loro i prigionieri politici Mapuche nel carcere di Angol e un prigioniero politico Mapuche nel carcere di Temuco. Il coordinamento 18 ottobre per la libertà dei prigionieri e delle prigioniere politiche della rivolta, ha organizzato per tutti i venerdì una giornata di agitazione con una chiamata nazionale e internazionale per appendere uno striscione, inviare un videomessaggio o scattare una foto con un cartello per la libertà di tutti e di tutte le prigionieri e le prigioniere della rivolta in Cile. E noi come Rete in Difesa Popolo Mapuche stiamo sempre aderendo dalla distanza a queste iniziative virtuali per inviare la nostra solidarietà internazionalista, anticapitalista e anticarceraria, oltrepassando le frontiere e le sbarre. Perché chi dimentica i prigionieri e le prigioniere della rivolta si dimentica anche della lotta. Noi restiamo a casa, ma in silenzio mai. Il virus non ucciderà la nostra dignità. Torneremo, lotteremo e vinceremo. Per qualsiasi altra informazione, visitare la nostra pagina mapucheit.wordpress.com. Grazie. Yo pensaba que la corona era una cerveza. Y yo pensaba que la corona era para las princesas. Pero que yo he visto ya ahí en la tele que ella no es nada que me consuele. Y que la agüita con el jabón lo único que repele. Y que dicen que está en todos lados, está en todas partes. Y perdone, señor vecino, por molestarte. Vaya a tener que avisarte, que va a tener que aguantarte cuando vaya al lavabo y no quede papel de baño. Se van a pique todos los negocios, va a haber desgracia, va a haber divorcio. Pero estamos aquí en el perreo y tú tendrás tiempo para tu pastoreo. Aunque voy a tener que aprender a ligar por correo. Del campineo, pero no ve a mi novia con fileo. Coronavirus me ha dejado sin curro y me ha dejado sin fiesta. Coronavirus, no sé cómo voy a salir de esta. Coronavirus, coronavirus, vamos a salir de aquí, mamá. Y si no, ottimo, abbiamo così finito questa prima parte, questa occhiata sul mondo. Penso che ci saranno diverse riflessioni da fare su questi contributi. Passiamo alla seconda. La seconda è breve, si tratta di due presentazioni. Vi diamo adesso un'anticipazione, vorremmo fare un esperimento. Vi diamo adesso un'anticipazione di un contributo di Massimo De Angelis, che è un professore di economia politica all'Università dell'East London e un esperto di Commons, che ci ha mandato un contributo abbastanza lungo. Di cui adesso diamo solo una decina di minuti. Sostanzialmente lui fa un'analisi dell'esistente e prova a prefigurare quelle che possono essere le possibili esiti della situazione in cui si trovano praticamente tutti i paesi o quasi tutti i paesi del mondo. La idea era quella di proporlo integralmente domenica prossima alle 5, daremo poi conferma sul sito in caso, e lasciando aperti i microfoni a chi volesse intervenire con un sistema che poi spiegheremo. Quindi sostanzialmente vorremmo fare una specie di incontro pubblico che prende spunto da questo contributo. Passiamo direttamente a De Angelis. Partiamo da una constatazione abbastanza lineare, e cioè che tutti i sistemi, le pratiche, le misure di controllo che il capitale neoliberale ha impiantato negli ultimi 40 anni si stanno rivelando non solo inadeguati, ma anche e soprattutto corresponsabili della diffusione epidemica e dell'alto numero di vittime e di contagi. Si pensi alla disposizione predatoria nei confronti della natura del capitalismo e del capitalismo neoliberale degli ultimi 40 anni, con l'accelerazione della alla deforestazione al fine di impiantare, che so, industrie estrattive, sistemi agricoli, allevamenti intensivi o accomodare processi di rapida urbanizzazione. Ecco, tutto ciò ha aumentato la probabilità di trasmissione zoonotica di virus da specie selvatiche all'uomo, come è argomentato da più parti. Un altro fattore, l'iperconnessione della globalizzazione, ha aumentato la probabilità del contagio. Si è stato anche argomentato da varie ricerche ultimamente che l'inquinamento, e in particolare le polveri sottili, ha aumentato la permanenza del virus in aria, aumentando il suo campo d'azione, e questo sarebbe uno dei fattori che spiegherebbe perché nella pianura padana ci sia stato così un grande impatto del virus. Un altro fattore è le politiche di privatizzazione e semi-privatizzazione della sanità pubblica, un'altra grande opera neoliberale, accompagnate dai tagli della spesa pubblica, la razionalizzazione delle risorse. Ecco, tutto ciò sappiamo ha reso più complicato la gestione dell'emergenza sanitaria e amplificato i suoi effetti devastanti e di sofferenza e di morte. L'intensificazione della competizione economica e delle sue logiche in questi anni ha reso indisponibile localmente tutta una serie di prodotti necessari all'emergenza, dalle mascherine ai ventilatori, che ora, in questo periodo, sono stati accaparrati in regime di ipercompetizione. Parliamo poi delle politiche del lavoro e della precarizzazione, che hanno svalorizzato lavori chiavi, oggi in prima linea ed emersi come assolutamente necessari per il bene comune, e ha reso allo stesso tempo vulnerabili larghi settori della società che in periodo di lockdown, di chiusura, non ha accesso ad alcun reddito. Aggiunga un altro aspetto di questi anni, le politiche del lavoro e della precarizzazione. Tutto ciò ha svalorizzato, lo scopriamo oggi nel mezzo della pandemia, ha svalorizzato lavori chiavi che oggi sono in prima linea ed emersi come assolutamente necessario per il bene comune e ha reso allo stesso tempo vulnerabili larghi settori della società che in questo periodo non ha accesso ad alcun reddito. L'aumentata frammentazione sociale, inoltre, la precarietà, l'assenza di tutele e diritti, ha reso problematica la vita di milioni di rifugiati nel mondo, migranti e lavoratrici e lavoratori del sommerso, oggi sull'orlo della rovina. Il senso comune neoliberale si è dimostrato inefficace e devastante. Cioè il nocciolo istintivo dentro il regime di verità neoliberale, e nonché le forze imprenditoriali che lo incorporano, che mette l'attività economica al fine del profitto prima di ogni altra cosa. Ecco, tutto ciò ha contribuito a gravemente ritardare l'azione politica dello Stato. Il modello agricolo monoculturale, industriale, dominante, ecco, questo modello agricolo ha rivelato tutta una serie di fragilità che possono portare a conseguenze ancora ulteriormente più gravi nella pandemia. La crescita, la coltivazione di monocolture genetiche, che siano animali o piante, un genome quasi identici, rimuove la capacità immunitaria in molte popolazioni e quindi i patogeni evolvono in maniera e si trasmettono in maniera molto più veloce. Tutto ciò è la manifestazione della fondamentale corresponsabilità del capitalismo neoliberale sul fronte degli effetti della pandemia. Il contesto sociale creato da una pandemia o una catastrofe o una pestilenza, per usare un vecchio termine, possono avvantaggiare, offrire opportunità evolutive sia agli uni, i microparassiti nel nostro corpo umano, che agli altri, i macroparassiti che dominano e sfruttano il corpo sociale. Però credo che si possa cominciare a intuire che si sta aprendo un periodo che i teorici della scienza della complessità chiamano l'orlo del caos, cioè dove l'ordine sociale esistente ha necessità di evolvere, di evolversi, di riconfigurarsi per affrontare sia le rigidità interne, ma sia le grandi perturbazioni portate da fattori che vengono da fuori del capitalismo, però che trovano nel capitalismo moderno un fertile terreno. Tra questi fattori, oltre a un virus di origine zoonotica, c'è una viralità di origine sociale che si è sviluppata soprattutto dalla crisi del 2008, e questa viralità si chiama lotta. L'emergere improvviso di picchi del fare in comune nelle fasi di crisi, come per esempio il grande esempio della Grecia nel periodo successivo della crisi finanziaria, è sintomo che la società sta cercando di praticare un processo di riconfigurazione di sistemi di priorità, e lo fa in primo luogo creando capacità in più o ridondanza, un concetto della scienza adottato dalla scienza della complessità, cioè un eccesso di capacità in questo caso di cura, rispetto a quello che si darebbe se le cose fossero normali, cioè adagiate sulla normalità dell'austerità. È chiaro che questa ridondanza creata dal fare in comune è tanto necessaria quanto carenti sono le istituzioni e i dispositivi privati e pubblici della normalità. Credo dunque che a grandi linee si possono tracciare tre possibili traiettorie per il futuro, e questo dipenderà dalle potenzialità del comune di attualizzarsi, dipenderà da come il rapporto tra forze in campo si dispiegherà. La prima traiettoria è la continuazione dello status quo neoliberale e della sua nozione di normalità, cioè il ritorno alle solite routine alienate, inquinate, stressate e marginalizzate, e di arricchimento per i pochi. A meno che questa crisi abbia veramente permesso di acquisire una nuova consapevolezza di massa sul fatto che siano più importanti le ragioni e le pratiche di valore della riproduzione della vita, e quindi la cura, l'ambiente, la socialità costruttiva, il comune, la dignità, che siano più importanti queste ragioni di quelle del capitale e della sua pulsione per la ricerca della crescita continua a fronte di tutto il resto, sarà possibile che il neoliberismo si aggrappi ancora un po' al timone della governance. La seconda traiettoria è un riallineamento delle classi dominanti sotto la direzione di uno Stato che deve rispondere alle necessità di rinnovata crescita dell'economia che gli viene posta dal capitale, sia rispondere a nuove lotte e resistenze plurali sul tema della sanità, del welfare e dell'ecologia. E qui si profila la possibilità di un nuovo patto sociale, fondato attorno a un Green Deal, ma portato avanti con una modalità tecnicista che si fonda sulla grande illusione della possibile coabitazione tra crescita e profitto capitalista, crescita e profitto capitalista da una parte, ed ecologia e welfare dall'altra. e che vedrà adottare sempre più politiche elaborate di controllo e sorveglianza sociale, al fine di controllare i movimenti sociali. L'intensificarsi e moltiplicarsi di queste lotte già da ora, ma soprattutto speriamo in una fase post-pandemica, può spingere il capitale a scegliere quest'altra modalità di governance, diversa dal neoliberismo, e usi quindi un po' più di cooptazione di queste lotte in modo da cogliere alcune delle istanze, però ad esclusione di altre. Una selezione politica di significati e discorsi da includere dentro a un nuovo regime di verità del capitale. Infine c'è un terzo scenario, dove i movimenti sociali, sapranno coniugarsi con una prospettiva trasformatrice e costituente del comune, il quale poi saprà riorganizzarsi in diverse scale della società, in forme nuove, saprà anche trasformare lo Stato e riappropriarsi di sempre più circuiti economici, trasformarli in un orizzonte dove la priorità della vita sociale ed ecologica della produzione, al fine della riproduzione sociale ed ecologica, è affermata sopra quella del profitto e dell'ossessione della produzione al fine della produzione stessa. Non rimane che prepararci ad entrare dentro la storia. Ecco, questo pezzo che abbiamo dato un estratto, appunto seguite il sito di Lost e vediamo se riusciamo a farlo domenica prossima. Ora faccio un'altra piccola anticipazione, vi dico che nella prossima trasmissione, che sarà il 31 di maggio, era nostra intenzione occuparci della scuola. La scuola ha subito delle enormi trasformazioni, non si sa che cosa ne succederà per l'anno prossimo, i ragazzi sono stati 2 mesi in casa e interessante sarebbe ricostruire come questa cosa è stata vissuta, e niente, puntiamo ad avere una parte della trasmissione dedicata alla scuola per la prossima puntata della radio. Ora facciamo uno stacchetto musicale e andiamo a chiudere con la terza sezione. Con le mie mani in mano, perché ho tante voci in testa che mi richiamano, e ho quell'amico che quando sta preso male non ci sta bene, pure se poi mi incavolo, e come se faccio una corsa ostacolo contro le male lingue, però contro chi fa da trampolo. Lascio la scuola, non so più finto per gli altri, sono tornato mo. Non me ne frega proprio un cazzo delle tue idee, t'ha fallito. Non me ne frega proprio un cazzo se non ci sta nessuno, sto solo. A volte mande re fanculo tutti. Fuck you all, fuck you bro. Oh my god, fanculo. Sto loco, come bro, quelli veri. Giro distratto, a me no. Alleluia che non sto sull'asfalto. Non chiedo mai che mi turba la mia anima. Se spenta ma vado via. Ti devo dare, mi guardi dal cap. Run from night club, non ti campa che pop. Sta con la bamba nei box. Sono un grammo sulla cavappa nell'altra euro. Tu vorresti l'iPhone, tu vorresti il phone. Ma sei un rapper starter, pacca e pure pacco. Pure falso, non solo pure scarso. Non solo pure matto, non solo pure ladro. Ma tira, chiudo in cancro, ma tira, chiudo in cazzo. Ma tira, chiudo e babbro. Non me ne frega proprio un cazzo delle tue idee, t'ha fallito. Non me ne frega proprio un cazzo se non ci sta nessuno, sto solo. Bene, ora andiamo alla terza parte che sarà molto breve e abbiamo fatto tardi. Allora abbiamo un contributo dei lavoratori intermittenti dello spettacolo che hanno fatto qualche giorno fa un'iniziativa a Palazzo della Scala. Gli abbiamo chiesto di darci questo contributo, è una categoria professionale già molto poco tutelata e in questo contesto lo è, diciamo così, ancora meno. Andrei subito col contributo. No, aspetta, vabbè. Così basse su sfruttamento, squilibri e disuguaglianza è sempre stato ovvio per chi lotta, si organizza e si batte per la giustizia sociale. Ma questa crisi sanitaria globale ha messo sotto gli occhi tutti e tutte la profonda iniquità del sistema economico, sociale e politico. Ha fatto emergere le enormi lacune che ci sono riguardo tematiche vitali quali sanità, diritto all'abitare e ovviamente lavoro. Rispetto al tema lavorativo, anche nel mondo dello spettacolo si è iniziato a ragionare in maniera specifica sull'inadeguatezza dei contratti dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo. Contratti molto vaghi e molto vari. Ce ne sono almeno sette, considerando anche quelli agricoli ed edili applicati alla nostra categoria. E sono frutto delle solite concertazioni fra sindacati confederali e datori di lavoro, che finiscono sempre per agevolare chi sfrutta. In un discorso più assoluto, una buona parte delle problematiche del mondo del lavoro oggi sono dovute alla forma cooperativistica, fittizia, che è molto lontana dal concetto mutualistico che dovrebbe stare alla base di questa forma di gestione dell'impresa e del lavoro. Cosa sono queste cooperative se non un tramite per sbilanciare il rapporto di forza fra datore di lavoro e lavoratore? Sono semplicemente un modo per far lavare le mani alle imprese, che così possono evitare di assumere decidendo di far lavorare o meno una persona senza nemmeno bisogno di rescindere un contratto. Se piaci lavori, se non piaci non viene chiamato, utilizzando un semplice contratto di intermittenza, senza obbligo di chiamata. Per tornare allo specifico del settore spettacolo, la risposta delle maestranze in questa ottica di crisi è stata quella di auto-organizzarsi in una serie di comitati regionali e nazionali. Ma dopo un primo momento di sviluppo di una coscienza autonoma è arrivato l'inevitabile confronto con i sindacati, sia di base che confederali. La scelta obbligata per apportare radicali cambiamenti al comparto dello spettacolo sembra quindi quella di intraprendere un percorso sindacale, ma al momento la faccenda è abbastanza complicata. Perché da una parte abbiamo CGIL, CISL e UIL che spingono per tesseramenti di massa e convincono, perché conoscono il tema, anche se l'hanno ignorato fino a ieri, e più che un confronto propongono un conforto per chi è completamente spaesato in questa situazione. E dall'altra troviamo invece dei sindacati di base che non conoscono bene la situazione del nostro settore, ma giustamente propongono una strada di lotta che però per una buona parte dei lavoratori risulta complicata e oscura e risultati poco tangibili. Io credo che l'unico modo per uscire da questa situazione di stallo sia quello di continuare a sviluppare una coscienza di classe, che è sempre mancata in un settore altamente disgregato come il nostro. Disgregato anche perché non esiste un posto di lavoro unico, ma un'infinità di palchi su cui ci si incontra ogni tanto, ma dove non c'è molto spazio per il dialogo e rimane solo la frenesia dell'evento. La coscienza di classe dovrebbe riuscire a raccogliere tutti i lavoratori e le lavoratrici sotto un'unica bandiera, a prescindere dalle scelte sindacali individuali. Tutti noi dovremmo aver ben chiaro cosa ci è stato tolto in questi anni e in cosa dovrebbe consistere un cambiamento che andrebbe a nostro beneficio e a beneficio del mondo del lavoro, nell'arte e nella cultura in Italia. Ad esempio, per chi lavora come noi ad intermittenza, seguendo il carattere intermittente degli eventi, bisognerebbe partire da riconquistarci il nostro tempo. Quando si lavora dalle 12 alle 16 ore e quando non si lavora, si aspetta la chiamata. Come possiamo avere una dignità lavorativa se non abbiamo nemmeno la possibilità di immaginare un futuro? Da questo punto di vista, la situazione degli intermittenti francesi, conquistata con scioperi e lotte, è una speranza che più si stanno auspicando di ottenere. Senza andare troppo nel dettaglio, il sistema francese garantisce una continuità di reddito con delle indennità per i periodi lavorativi a fronte di un tot di ore lavorate prima di accedere a questi indennizzi. Questo cosa comporta, oltre che il recupero dei contributi versati allo Stato? Comporta il non dover sempre vivere nell'attesa e nel dubbio se domani ci sarà o no un lavoro. Porta il tecnico, il lavoratore e la lavoratrice, a poter scegliere bene i propri lavori seguendo le proprie passioni e le proprie indoli artistiche. Perché non convincerà tutti, ma chi si occupa dell'aspetto tecnico di un'opera teatrale o di un concerto sta compartecipando all'opera artistica. Pensate alle scenografie, agli abiti, alle luci che tagliano e seguono i movimenti, alle scelte che compie un fonico quando taglia una frequenza. E pensate anche a chi arriva alle 5 del mattino, di fronte a una location per scaricare un furgone per permettere a tutti di poter fare il proprio lavoro. Senza dimenticare che tanti tecnici hanno iniziato scaricando furgoni e poi sono stati elevati in questa scala gerarchica che sta al centro dello show business. In parole povere, questa dignità, anche artistica, in Francia si è ottenuta anche grazie a un contratto che ha legato a doppio filo le maestranze agli artisti, uniti verso un unico fine, vivere di arte e far vivere l'arte. A Milano, il settore spettacolo muove cifre importanti in termini occupazionali. Oltre ai teatri e ai concerti c'è la moda, la fiera, gli eventi aziendali e tutto un indotto che fa leva sulle privazioni dei diritti di chi sta alla base e viene schiacciato. Facile fare gli imprenditori sul sudore e sul sangue dei lavoratori e delle lavoratrici. Anche più facile senza prendersi l'onere del rischio di impresa, senza assumere nessuno perché c'è qualcuno che ti permette di farlo o di non farlo. Comunque, per tornare al discorso di un'unica bandiera per il mondo dello spettacolo, qua tocca spendersi per costruire e consolidare quella famosa coscienza di classe, basata su più sicurezza sul lavoro, perché non è più possibile lavorare 16 ore quando la battaglia delle 8 ore lavorative appartiene agli anni 20 del XX secolo e non è nemmeno possibile morire costruendo un palco, perché per risparmiare soldi bisogna risparmiare tempo. Una battaglia comune da portare avanti dovrebbe essere quella della continuità di reddito, perché il nostro essere intermittenti dovrebbe essere un punto di forza da incentivare e non l'ennesimo motivo per essere sfruttati. E anche un sostegno al reddito durante la crisi del Covid-19, perché questa crisi per il settore spettacolo non finirà di certo il 1° di giugno. Questo è fondamentale perché senza aiuti dei lavoratori e le lavoratrici, quando si ripartirà fra parecchi mesi, non ci sarà più un comparto spettacolo da tutelare, ma solo dei big del settore pronti a fare razzia dei cadaveri. Serve reinventarci un modo di lavorare e serve coinvolgere colleghi, colleghe, artisti e cittadini, perché ogni privazione di un solo diritto sul lavoro è una privazione per tutti e anche se oggi ci si sente tutelati dal proprio contratto, domani potrebbe toccare a chiunque un bel contratto intermittente senza obbligo di chiamata e quindi senza obbligo di compenso. Per commentare in coda quello che abbiamo fatto alla Scala, l'esposizione dei due striscioni, credo che sia stata una prima prova del fatto che siamo una categoria motivata ad andare avanti, sia sui tavoli di confronto, come quelli organizzati negli ultimi mesi dai vari coordinamenti, che toccavano la tematica dell'intermittenza, della contrattualistica e di tanto altro, ma siamo motivati anche a scendere in piazza, e che su tutti questi anni si è fatto finta di nulla, ora non è più il tempo, anche perché tutti noi dovremmo uscire dalle nostre specificità per fare un ragionamento molto più assoluto. I superstar di plastica indegnamente chiamati artisti, convention di banche multinazionali, grassi pranzi per maiali in giacca e cravatta, convegni di partiti e sindacati, senza sicurezza, senza diritti, senza un tetto orario, spesso senza contratto, a volte senza la certezza di tornare a casa, maledetto lavoro, maledetti soldi. Ringraziamo quindi gli intermittenti dello spettacolo con un pensiero di nuovo a Gigione che era fonico, un pensiero a Francesca che ha letto la poesia di Anna Borghi, a lui dedicata, e andiamo avanti. Andiamo avanti con una notizia che avremmo preferito non dare. La scorsa puntata di Loco 19 l'abbiamo iniziata parlando di una tensione che cresce in relazione alle condizioni materiali prodotte dal lockdown, dalle sue conseguenze economiche e da alcune deduzioni che rendono evidenti molte criticità del nostro modello di vita. Ci sembra di poter annoverare tra questo genere di eventi l'operazione Ritrovo, che all'alba del 13 maggio ha portato agli arresti di 12 persone nella cosiddetta area anarchica. I 12 sono imputati di istigazione a delinquere, deturpamento e imbrattamento, danneggiamento, incendio. Il tutto condito con il famigerato 270 bis, associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Il nesso con la pandemia non è nostro, ma lo fanno gli stessi inquirenti quando dicono In tale quadro, l'intervento, oltre alla sua natura repressiva per i reati contestati, assume una strategica valenza preventiva volta a evitare che in eventuali ulteriori momenti di tensione sociale, scaturibili dalla particolare descritta situazione emergenziale, possano insediarsi altri momenti di più generale campagne di lotta antistato, oggetto del citato programma criminoso di matrice anarchica. Ora, la funzione preventiva dell'azione penale, oltre a essere un'aberrazione del diritto, testimonia inequivocabilmente la presenza di timori legati all'acuirsi della pressione sugli strati più deboli della società. L'operazione così diventa un modo di mettere le mani avanti. Tra i 12 arrestati, infine, c'è Stefania, che ha collaborato alla trasmissione con aggiornamenti dalle carceri e dalle piazze del 25 aprile e che ha partecipato all'incontro di Lost, critiche della tecnologia dal movimento luddista ad oggi del 16 giugno 2019, con una relazione sulla rivista Los Amigos del Lud e che può essere riascoltata su cox18stream.noblog.org o sul sito di Lost. A lei e a loro, a tutti loro, vanno i nostri saluti e la speranza di vederli presto liberi. Mi associo e ci associamo ai saluti e alla speranza. E un'altra notizia molto breve, un comunicato della FIEF, cioè dell'ex o ancora FILEF, Federazione Italiana Lavoratori Migranti e Famiglie, la quale ci dice che su emergenza rientri e disoccupazione italiani all'estero chiede di utilizzare una parte dei 4 milioni di euro stanziati in aggiunta ai fondi di assistenza dei consolati per mitigare i costi di rientro, risorse che vanno usate anche per aiutare a superare questi mesi di difficoltà in mancanza di altri sussidi. La notizia intera su emigrazione-notizie.org. Ricordiamo che la FILEF tanti anni fa aveva modificato la sua sfera d'azione passando dalla tutela degli italiani all'estero alla tutela degli immigrati in Italia. Dunque questo si tratta probabilmente di un nuovo cambiamento da parte loro. E ritorniamo in studio. Pronto? Torniamo in studio e io direi che diamo un ultimo pezzo e andiamo in chiusura con i saluti. Ma, che dici? Io direi ci salutiamo tutti quelli che sono rimasti e poi lasceremo il pezzo in chiusura. Volevamo ringraziare intanto come di consueto Cisti per averci dato la piattaforma che stiamo utilizzando, quello che chiamiamo studio per trasmettere in questo momento, e anche... E poi ringraziamo Francesca Giorgi, Anna Borchi, Scini, Marco Fusinato, la Rete Internazionale per la Difesa del Popolo Mapuche, tutti quelli che naturalmente Bombo, Victor, Ray, Susi, tutti quelli che hanno contribuito in qualche modo a dare vita a questa trasmissione. Grazie, ma se sono qualcuno di loro è ancora qua in studio, se ci vuole salutare ci fa piacere sentire la loro voce. Esatto. Allora, grazie a tutti da Barcellona. Ma grazie a voi. Grazie anche per avermi ospitato, buona serata. Ciao Ray. Grazie ancora. Omot, abbiamo dimenticato forse, se volevi fare un aggancio con il comunicato dei lavoratori dello spettacolo e Gigione. No, l'ho detto, sì, l'ho detto in fondo, sì, che ci faceva pensare anche a lui, anche quello, diciamo. Va bene, dai, musica. Ciao a tutti. Ciao. E tutte. À cette effrontée qui peut chanter pendant que Rome brûle, elle brûle tout le temps. Honte à qui malgré tout fredonne des chansons à Gavroche, à Mimi Pinson. En 1937, que faisiez-vous, mon cher? J'avais la fleur de l'âge et la tête légère. Et l'Espagne flambait dans un grand feu grégeois. Je chantais et j'étais pas le seul. Y a de la joie, honte à cette effrontée qui peut chanter pendant que Rome brûle. Elle brûle tout le temps. Honte à qui malgré tout fredonne des chansons à Gavroche, à Mimi Pinson. Et dans l'année 40, mon cher, que faisiez-vous? Les teutons forçaient la frontière et comme un fou. Et comme tout un chacun vers le sud, je fonçais en chantant « Tout ça, ça fait d'excellents français. Honte à cet effronté qui peut chanter pendant que Rome brûle, elle brûle tout le temps. Honte à qui malgré tout fredonne des chansons à Gavroche, à Mimi Pinson. À l'heure de Pétain, à l'heure de Laval, que faisiez-vous mon cher en plein dans la rafale? Je chantais et les autres ne s'en privaient pas. Belle amie, seule ce soir, j'ai pleuré sur tes pas. Honte à cet effronté qui peut chanter pendant que Rome brûle, elle brûle tout le temps. Honte à qui malgré tout fredonne des chansons à Gavroche, à Mimi Pinson. Mon cher, un peu plus tard, que faisait votre glotte quand en Asie ça tombait comme à Gravelotte? Je chantais, il me semble, ainsi que tout un tas de gens, le déserteur, les croix, quand un soldat, honte à cet effronté qui peut chanter pendant que Rome brûle, elle brûle tout le temps. Honte à qui malgré tout fredonne des chansons à Gavroche, à Mimi Pinson. Que faisiez-vous mon cher au temps de l'Algérie, quand Brel était vivant, qu'il habitait Paris? Je chantais quoique désolé par ces combats, la valse a mis le temps et ne me quitte pas. Honte à cet effronté qui peut chanter pendant que Rome brûle, elle brûle tout le temps. Honte à qui malgré tout fredonne des chansons à Gavroche, à Mimi Pinson. Le feu de la ville éternelle est éternel. Si Dieu veut l'incendie, il veut les ritournelles. À qui fera-t-on croire que le bon populo, quand il chante quand même, est un parfait salaud? Honte à cet effronté qui peut chanter pendant que Rome brûle, elle brûle tout le temps. Honte à qui malgré tout fredonne des chansons à Gavroche, à Mimi Pinson. Distribuzione alimentare gratuita. Cox 18 e Usi Sanità distribuiscono borse alimentari solidali nel quartiere. Puoi prenotare il ritiro o la consegna a domicilio della tua borsa solidale allo sportello Usi Sanità in via Torricelli 19 oppure telefonando al numero 02 89 41 5932 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 ed il sabato dalle 9.30 alle 12.30. Se inoltre vuoi sostenerci economicamente per formare nuove borse solidali, scrivici su cox18@inventati.org e ti diremo come fare. CSO a Cox 18, via Conchetta 18 Milano, sportello autogestito Usi Sanità, via Torricelli 19 Milano. Loco 19. Loco 19. Vedi, c'è già un effetto eco che sembra. Benvenuto al Loco 19. 19. Yeah!